11, 4 minuti primi. Ed è giovedì 19 febbraio del 2009, 87.900, la modulazione di frequenza. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Questo è Visionari, il consueto appuntamento settimanale con il cinema. Ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più potete consultare la scaletta sul sito della radio, ossia ondarossa.info, dove troverete gli ospiti di questa settimana e poi i link per riascoltare le puntate precedenti e poi le uscite del weekend cinematografico e poi la settimana dal punto di vista dei film sul piccolo schermo, la programmazione di tutta la settimana e poi i link per dare un'occhiata alle nostre recensioni. Ospiti di diverso tipo quest'oggi, allora diamo subito la parola a loro. Pomeriggio Elisa Mereghetti, ci sei? Ci sono, oh, ciao. Eccoci ciao. Qui, come va? Non c'è male, grazie, fa freddo. Fa freddo. Esatto. Allora, con te per parlare della seconda edizione dello Sguardo sugli autori a Bologna 20 e 21 febbraio. Esatto, un'iniziativa interessante. Cosa vuoi sapere? Facciamo intanto una panoramica su quello che rappresenta questa manifestazione. Allora, questa manifestazione è alla seconda edizione, sì. Si svolge all'interno dello spazio Officine ma Visioni Italiane, cioè un festival su fiction e documentari prodotti in Italia, organizzato dal Cinema Lumière. Noi siamo l'associazione documentaristi Emilia Romagna e abbiamo proposto già dall'anno scorso questo evento, questa iniziativa, che è un momento di scambio e di incontro, di confronto tra documentaristi e appassionati del genere e anche pubblico generico ovviamente, su quello che è il documentario visto dal punto di vista degli autori, quindi cercare di dare a questo genere che non ha un grande spazio di visibilità sui nostri mezzi di comunicazione, ridargli un senso di dignità e di creatività, quindi esplorare quelli che sono anche soprattutto gli aspetti creativi del documentario. Sì. L'anno scorso l'abbiamo affrontato appunto dal punto di vista degli autori e quindi dei documentaristi stessi che hanno in qualche modo lavorato sull'aspetto autoriale, quindi cosa significa produrre e realizzare un documentario da un punto di vista creativo. Sì. E quindi sui linguaggi del documentario. Quest'anno invece abbiamo deciso di lavorare con produttori e montatori e quindi far emergere quelli che sono gli aspetti creativi dal punto di vista proprio dei produttori e dei montatori. Sono due ruoli che vengono intesi, uno come procacciatore di soldi e l'altro come puro tecnico. In realtà noi consideriamo questi due ruoli come fondamentali e altamente creativi e insieme a molti ospiti discuteremo tutti questi aspetti. Bene. Senti, un bilancio della prima edizione? La prima edizione è stata molto partecipata, si è svolta anche l'anno scorso su due giornate e abbiamo avuto moltissimi ospiti e un bel pubblico e quindi c'è molto interesse. C'è da ricordare che in questo spazio, appunto nel Cinema Lumière adiacente, c'è la sede del DAMS, quindi ci sono moltissimi anche studenti sia del DAMS che di Scienze della Comunicazione che di altre facoltà che sono ovviamente interessati a questo tema. Ci auguriamo insomma che anche quest'anno sia la stessa cosa. Senti, rispetto ai titoli e i registi, qual è la mole di proposte quest'anno per quanto riguarda sia documentari che autori? Dove dici all'interno del nostro... Sì, nella rassegna. Nella rassegna Visioni Italiane c'è moltissimo ed è un programma molto molto interessante che invito a controllare se si vuole partecipare, c'è sul sito della Cineteca di Bologna, c'è tutto il programma aggiornato. Sì. Nel nostro spazio abbiamo la presenza di una circa 12 tra produttori e montatori, tra cui Gianfilippo Pedote, Esmeralda Calabria, Erika Manoni, Luca Gasparini, per citarne alcuni. Sì, sì, sono persone che da anni lavorano sul documentario, sulla produzione, sul montaggio, persone anche note in Italia, e quindi ci auguriamo che insomma siano di richiamo, soprattutto perché questo spazio vuole essere uno spazio appunto di approfondimento che intende ridare al documentario una visibilità dal punto di vista della sua capacità di informare, educare e soprattutto come strumento di espressione. Quindi insomma vogliamo che non si continui a parlare di documentario semplicemente dicendo vabbè non ci sono soldi, siamo poveretti, siamo quella. In realtà noi facciamo un lavoro bellissimo che merita di essere conosciuto anche per il suo valore espressivo. Sì, sì. Questo insomma ci auguriamo che venga recepito. Senti, in chiusura volevo chiederti, li abbiamo avuti ospiti già lo scorso anno, l'attività della DER. Sì, la nostra associazione è attiva sul territorio regionale da 3 anni e si è occupata in questi anni di lavorare soprattutto sul versante della promozione, cioè che sta, scusa per chi ci ascolta, documentaristi Emilia Romagna. Esattamente, associazione documentaristi Emilia Romagna, e quindi sul territorio regionale ma anche attraverso iniziative che hanno un carattere più nazionale come questo, come questa iniziativa di cui abbiamo parlato ora, intendiamo diffondere la cultura del documentario e una sensibilizzazione su quello che significa fare documentari oggi in Italia. È un compito importante che cerchiamo di svolgere con l'aiuto di diversi partner, istituzioni, prima fra tutte ovviamente la Regione Emilia-Romagna, e tramite sinergie con l'Associazione Nazionale DocKit e insieme a molti altri. Ultimamente stiamo lavorando anche sulla creazione di contatti con produttori stranieri, quindi con la creazione di reti per la coproduzione internazionale, quindi stiamo aprendo anche diciamo un settore diverso che cerca di mettere insieme produttori di diversa provenienza per arrivare poi a coprodurre. Però il nostro scopo principale rimane proprio quello di promuovere i documentari, cosa che facciamo anche all'interno delle scuole con progetti educativi per la diffusione del documentario nelle scuole medie, inferiori e superiori della Regione Emilia-Romagna. Bene, allora ci ricordi qualche sito di riferimento per la programmazione? Esatto, allora Lo Sguardo degli Autori, 20-21 febbraio presso il Cinema Lumière. Sì. Volevo aggiungere che presenteremo anche gli atti dei convegni sulla edizione dell'anno scorso e anche altri convegni che sono stati fatti a Bellaria e presso il Premio Ilaria Alpi, quindi ci sarà anche della documentazione cartacea di riferimento piuttosto importante, e tutto questo si può vedere, il programma di tutta questa iniziativa si può vedere nel sito della DER, che è www.dder.org. Molto bene, allora in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie anche a voi, ciao, a presto, ciao. Era la regista Elisa Mereghetti, organizzatrice della seconda edizione dello Sguardo sugli autori a Bologna, 20 e 21 febbraio. Andiamo avanti, come dicevo prima, la scaletta è sul sito ondarossa.info per quanto riguarda i contatti, visionari@ondarossa.it. Potete ascoltare anche in streaming dal sito ondarossa.info cliccando su in diretta, invece il numero di fax è 0644-63-616. Anche al regista Paolo Pisanelli, eccoci qui. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Come stai? Mi senti? Pronto? Mi senti? Sì, sì, ti sento. Ok, come va? Bene, sto vicino a una lavatrice, ma mi sposto, Un attimo, ecco. Allora, con te per parlare della rassegna Cinema del Reale Viaggi in Puglia a Berlino dal 21 febbraio al 1 marzo. Di cosa si tratta? Spariamo i fuochi d'artificio a Berlino, nel senso che allora viviamo tempi di crisi, non ci sono risorse, i documentaristi piangono sempre, piangiamo sempre, abbiamo deciso che non dobbiamo piangere più, anche se non c'è una lira facciamo delle cose belle, le vogliamo fare all'estero, perché in Italia non serve molto farle, diciamo. Cioè serve, nel senso che noi siamo contentissimi di fare da 5 anni la festa di Cinema del Reale nel Salento. Allora abbiamo visto che ci hanno invitati dalla Casa del Cinema di Berlino, la Zoe Gauschino, mi avevano invitato proprio con Il Sibilo Lungo della Taranta, uno dei film che ho fatto nel 2006. Sì. E da lì io poi, insomma, gli ho messo una pulce nell'orecchio, ho detto guarda che ci sono dei bellissimi film, documentari italiani. E dato che loro facevano, diciamo, erano interessati alla Puglia, è nato così questo Viaggi in Puglia, in cui abbiamo raccolto documentari che vanno dal 1949 fino al 2008. È un bell'excursus temporale. Sì, insomma, da documentari bellissimi, quelli di Cecilia Mangini, Mingozzi, Di Gianni, e di registi anche più sconosciuti, Tomei, fino a diciamo a un documentario di Edoardo Whisper, il documentario di Pippo Mezzapesa presentato a Venezia, il diario di uno scuro dei Fluid, il Sibilo Lungo della Taranta mio, ma poi anche Mattia Soranzo, Chiara Scrimieri, molti anche giovani autori esordienti che sono bravissimi, insomma, esordienti o comunque insomma ai primi lavori. Sì. Di che cifre stiamo parlando rispetto a di che cifre stiamo parlando rispetto ai titoli? Cifre in che senso? Quanti titoli verranno proposti? 21. 21, quindi un bel viaggio, insomma. Sì, sono dei bei viaggi e li presenteremo al Babylon Kino, che è un bellissimo cinema déco berlinese, insomma, storico cinema berlinese, e alla Zoe Gauschino, che è dentro un museo di storia, diciamo, della tedesca, proprio al centro, e nella Cinemateca, quindi una sorta di casa del cinema, di Cinemateca di Berlino, e saranno un appuntamento al Babylon Kino e 3 alla Zoe Gauschino in questa Cinemateca, a distanza di qualche giorno uno dall'altro. Quindi inauguriamo dopodomani e poi finisce il primo marzo tutto quanto l'avventura. Oh, tra i nomi che facevi degli autori ho sentito alcuni nomi femminili, che mi pare un buon segno, soprattutto in Italia, insomma, la regia al femminile è sempre piuttosto ridotta come... Beh, noi intanto portiamo i lavori di Cecilia Mangini, che per me è la più grande regista italiana per quanto riguarda il documentario, ma secondo me anche non solo sul documentario. Lei ha fatto le cose eccezionali, Allarmi San Fascisti con Lino Del Fra, però ci sta Chiara Scrimieri, ci sta Mariangela Barbanente con Sole, che è un bellissimo lavoro sul caporalato nel Brindisino, c'è Anna Bianco che racconta una giornata di sua madre, e c'è uno sguardo, sì, molto a raccontare anche un po' il modo di vivere nel sud. E quindi dai grandi temi, quelli soliti, insomma, no? I rituali popolari, sì. Delle tarante e delle feste, però poi si va ai rituali casalinghi, a come è strutturata una giornata, a quello che pensa. Secondo me quello che pensa una donna che vive nel sud, in un paesino. E questo per me è bellissimo, perché c'è una sensibilità, una capacità di rendere con ironia, poi tantissima ironia anche, gli argomenti della vita, della morte, del tempo che passa, della storia, questo è bellissimo. Niente, ci sono tante registe donne, ma io penso che è una distinzione che purtroppo esiste, perché insomma è tutta la società è maschilista, sì. Ma non soltanto riguardo al cinema. Certo. Senti, per riferimenti internet, per quanto riguarda il programma e anche come realtà, quella del Cinema del Reale? Allora, www.cinemadelreale.it, trovate proprio un press kit con anche le versioni in inglese e in tedesco, se avete amici a Berlino che volete invitare, perché certo. Insomma sarà una... Io penso saranno degli incontri intensi, poi... Forse ci sarà anche qualcuno dei registi, quindi noi non ci abbiamo assolutamente i soldi per invitare i registi, a malapena siamo riusciti a sottotitolare i film, però insomma siamo contenti di farlo. È una bella impresa comunque. Cioè. Sì. Senti Paolo, in Italia c'è in programma qualcosa prossimamente, sempre da parte vostra? In Italia, guarda, stiamo pensando dei progetti folli su Roma, perché Roma è una città ostica per qualsiasi iniziativa culturale, no? cioè si fanno meglio nei paesi, sì, del profondo sud o in luoghi più di provincia, però stiamo pensando così a un'idea anche per Roma, perché io vivo a Roma, invece Big Sur, che diciamo è il laboratorio di comunicazione che organizza il Cinema del Reale e che ne fa l'ideazione, lavora a Lecce. E quindi però stiamo pensando, sì, che bisogna fare qualche cosa, perché il cinema documentario io penso che è talmente, cioè, importante, perché forse è un modo di ripartire pure in una situazione così sfinita a livello di idee, di politica, e guardare dei film che parlano di te, dei problemi, delle cose della vita, penso che avvicina le persone. E se, dato che ormai sono dei periodi di disintegrazione sociale, è una bella cosa questa. Quindi prossimamente magari ci saranno sorprese qui a Roma, va bene? Sì, vorremmo fare. Prestiamo attenzione. Una sorpresa prima dell'estate calda, sì, la vorremmo fare a Roma. Bene Paolo, allora in bocca al lupo e a risentirci presto. Sì, per chi è interessato posso aggiungere una cosa. Vai. Io ho fatto un seminario, un primo modulo, filmare il territorio, sì, a Garbatella, alla, sì, Casetta Rossa. Ed è, ci sarà un secondo modulo a marzo, per chi è interessato, perché è un lavoro bello questo su raccontare il territorio, e secondo me anche quello è un modo di ricostruire un po' le cose. Ecco. Bene. Allora un abbraccio, a presto. Grazie ciao, mille. Paolo, ciao. Ciao a tutti. Paolo Pisanelli per quanto riguarda la rassegna Cinema del Reale, viaggi in Puglia, addirittura a Berlino dal 21 febbraio al 1 marzo. 14, 24 minuti primi e un bentornato anche a Gianfranco Pannone al telefono. Buongiorno, eccoci qui. Buongiorno. Come stai? Bene, abbastanza bene, a parte un piede mezzo fratturato, insomma, vabbè. Ma si va avanti lo stesso. Succede, succede. Io pure mi sono mezzo rotto qualche mese fa. Senti, Gianfranco, allora... per parlare con te di due cose. Allora, sì. il Sol dell'Avvenire, del quale avevamo parlato, il tuo documentario del quale avevamo parlato, credo al tempo di Locarno quest'estate. Penso, se non sbaglio, sì, sì. E poi della rassegna che ti hanno, una retrospettiva che ti hanno dedicato al cinema, alla Sala Trevi qui a Roma. Sì. Da dove cominciamo? Dimmi tu. Partiamo dal documentario, che è tuttora nelle sale. Sì, sì, è tuttora nelle sale, resiste qua e là, resiste ancora a Roma. Lo presenteremo nei prossimi giorni a Torino, è stato a Napoli fino praticamente a ieri. Insomma, abbastanza bene per essere un film documentario, insomma, abbiamo raccolto un po' di spettatori attenti che si sono fatti anche vivi con me e Fasanella su Facebook. Insomma, è stato molto molto interessante. È un film che viene e va, questo, insomma. A volte c'è il vantaggio dei documentari è che resistono di più perché, appunto, non avendo una distribuzione diretta e forte, scompaiono e ricompaiono. Io ho ancora vecchi film che ogni tanto ricompaiono nelle rassegne delle cose, mentre invece molto spesso i film di fiction scompaiono un po', no? Tranne che col DVD, ma poi non si trovano più. I documentari ricompaiono sempre, vedi? Sì, come il nostro passato. È come il nostro passato che, appunto, se ricompare sempre, ma in quel caso però se lo dimentichi con troppa disinvoltura, ritorna, come nel Sol dell'Avvenire. Dove... Fa parte proprio della storia italiana, infatti. Certo, senti, sì. Per chi ci ascolta, allora, tu hai svolto una ricerca in quel di Reggio Emilia, raccontaci, sì, un po' di per sommi capi di cosa si tratta. Ma niente, con Giovanni Fasanella siamo andati, giornalista insomma, che ha scritto questo libro Che cosa sono le biere, da cui poi è liberamente tratto il film, e siamo andati a Reggio Emilia a raccontare una storia di una parte delle BR, cioè da Reggio Emilia sono usciti fuori una dozzina di brigatisti rossi inizi degli anni 70, che venivano dall'esperienza dell'appartamento, che era composta di ragazzi di più provenienza politica, anarchica, socialista, comunista, ma in particolare ragazzi della FIGC, che erano capeggiati da Alberto Franceschini, uno dei due fondatori delle BR. E niente, questi ragazzi si staccarono dal partito, che era un po' a Reggio Emilia, un po' come la Democrazia Cristiana delle altre città, sebbene è vero che i comunisti governavano molto meglio, insomma, però insomma si staccarono dal partito perché avevano questo sentimento rivoluzionario. Di lì a poco ci sarebbe stata una riunione sulle colline reggiane che avrebbe coinvolto anche personaggi come Curcio e Simioni, e appunto in qualche modo sulle colline reggiane sono nate le BR Brigate Rosse. Mm-hmm. E quindi è una storia dell'album di famiglia, noi la consideriamo, cioè le BR ahimè non sono cadute dal cielo improvvisamente, ma fanno parte dell'album di famiglia della sinistra con cui dobbiamo fare i conti, perché le BR sono una tragedia, ma dire solo che sono una tragedia e basta, senza capirne le ragioni, senza capirne il perché sono nate, creando tutto quel casino che hanno creato negli anni 70, sarebbe un errore. Ma pare che una parte della sinistra però voglia questo, preferisca non parlarne. Noi siamo stati un po' boicottati non solo dal ministro Bondi, ma anche a sinistra. Mm-hmm. Senti, il risultato era come, cioè, facendo questa ricerca, sentendo le persone, facendo le interviste, le riprese, andando nei luoghi, ti sei aspettato quello che avevi immaginato all'inizio, oppure hai scoperto cose che non ti aspettavi? Ma il documentario ha questo di bello, che scopri sempre cose che non ti aspettavi, specialmente se cerchi di essere aperto, non andare col paraocchi sulla realtà. Sì, delle cose sono arrivate, delusioni e anche cose piacevoli. Sì. Forse le delusioni sono state un po' una chiusura di una parte dell'ex PC attraverso la CGL, attraverso anche quello che rimane del partito, insomma, una parte, non tutta per fortuna, e forse anche un po' di infantilismo da parte però degli ex testimoni che ho raccolto intorno a questo tavolo, che sono di questo ristorante, appunto, di cui parlavo, che sono praticamente persone che fecero la scelta di, appunto, di passare alla lotta armata, come Paroli, Franceschini, ogni bene, e altri che invece non lo fecero, insomma, che sentero da un passo da fare la scelta. Secondo me sono stati un po' infantili, nel senso che potevano approfondire di più. Le cose buone però è che hanno un lato umano straordinario, cioè che il fatto che uno in passato, pagando pure con il carcere, il fatto che una persona in qualche modo possa avere un lato umano sembra incredibile in questa Italia che preferisce guardare la realtà in modo l'ombrosiano, e invece il male è banale, cioè la banalità del male è sempre dietro l'angolo, per cui anche sul piano umano incontrare queste persone, persone anche come Ogni Bene o come Franceschini o come Paroli, voglio dire, è stato molto molto interessante e istruttivo, insomma. Senti, l'accoglienza in sala? L'accoglienza in sala, diciamo, io direi un tre quarti è positiva, cioè specialmente i giovani che dicono noi non sapevamo nulla di questa storia, non ci hanno detto nulla di questa storia, forse abbiamo imparato qualcosa e vogliamo anche approfondire di più. Poi da una parte c'è un pezzo della sinistra che reagisce invece un po' chiuso, le BR sono da condannare e basta, abbiamo già detto tutto, non c'è nulla da dire, e poi c'è un po' un ambiente perbenista più a destra che a sinistra, che secondo me continua ad avere problemi col documentario in genere, cioè il documentario è scandaloso perché non ha né il filtro della sceneggiatura né degli attori eccetera eccetera, e questo crea problemi evidentemente, però impatto... direi un tre quarti degli spettatori reagisce positivamente. Sì, sì. Senti, a questo punto arriviamo alla retrospettiva. Troppa grazia. Sono ancora abbastanza giovane, da un lato sono stato molto contento di accettare, come dire, questa rassegna, sì, che è organizzata dal Centro Sperimentale Cineteca Nazionale, poi Centro Sperimentale di cui sono anche un ex allievo. Dall'altra parte un misto di superstizione, poi dire vabbè, insomma, mi sembra un po' troppo, sono ancora da dire tanto, però effettivamente in 20 anni ho raccolto molti documentari, qualche fiction, insomma sono 21 lavori che vengono presentati in questa rassegna a partire da oggi sì, giovedì 19. Sì, sì, sì, sì. Oh, come saranno organizzate le 3-4 giornate, 19, 20? Sono 4 giornate che sono praticamente divise, me le hanno divise in 4 sezioni, sì. La rassegna si chiama Tra memoria e presente, fini Gianfranco Pannone, e c'è una sezione che comincia oggi che si chiama Memorie. Poi domani una seconda sezione dove ci sarà presentato anche il Sole dell'Avvenire questa sera alle 20:45 per chi lo vuole recuperare. Tu sarai presente? E poi c'è una sezione invece domani che si chiama Sud, sui film che ho dedicato un po' al sud dell'Italia, e sabato invece una sezione che si titola Roma e dintorni, sui film dedicato a Roma e a Lazio in generale, insomma da Latina Littoria per intenderci insomma ai primi anche lavori, e infine poi c'è America e dintorni, dove il giorno in cui viene presentata la trilogia e viene presentata anche Latina Littoria, cioè Il sogno dell'America, che ho raccontato in Piccola America, oppure Nell'America a Roma, che è un film sui stuntmen degli spaghetti western romani, insomma. C'è un po' tutto quello che io considero più importante di quello che ho fatto, insomma, mi fa piacere farlo vedere agli spettatori, perché specialmente i lavori più vecchi non sono stati visti, specialmente dai giovani, cioè ormai dopo 20 anni alcuni lavori ormai appunto hanno la loro età. Senti, ti stavo chiedendo prima, tu sarai presente in una di queste giornate? Sì, guarda, io sono presente questa sera, ci sarà un incontro alle 20:45 dove ci saranno Toffetti, che è il conservatore della Cineteca Nazionale, che insomma in qualche modo farà questo incontro. Io la chiamo una chiacchierata semiseria, perché sì, mi sembra un po' esagerato parlare di dibattito su di me. è una chiacchierata tra amici, sì, magari pure sì, con sì, qualche sì, spotto. Sì. E poi ci saranno Tarek Ben Abdallah, che è il direttore della fotografia con cui condivido da anni tanti film, Giovanni Fasanella, appunto, e Roberto Silvestri. Come critico, e poi quindi ci sarà questa chiacchierata, e poi seguiranno un cortometraggio che ho fatto su Giro Questi 2 anni fa, che si chiama Una questione poco privata, e Il Sole dell'Avvenire, e poi ci sarò dopodomani sabato a presentare un film mio poco conosciuto si chiama Io chiamo solo te, che è la storia di un architetto che decide di cavalcare il berlusconismo imperante nel 2003, un film che fu un po', come dire, messo da parte, un po' accantonato e non ha avuto una distribuzione, e quindi sabato sento il dovere di andare a presentarlo con la cosceneggiatrice con cui condivido il film, che è Giulia Merenda. Quindi dopodomani sabato, okay, alle 20:30. Gianfranco, per saperne di più via internet ci sono dei siti? Sì, guarda, vi lascio volentieri il sito, la mail, cioè nel sito praticamente del Centro Sperimentale, sì, www.fondazionecsc.it, www.fondazionecsc.it. Lì si possono trovare tutte le informazioni che servono. Allora, un abbraccio e ci risentiamo. Va bene, grazie a te. Ciao. Ciao, presto, ciao a tutti. E questo era il regista Gianfranco Pannone. Noi si prosegue. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza, giovedì 19 febbraio del 2009. Ogni giovedì dalle 14 alle 15 proseguiamo. Eccoci per parlare di uno dei pochi cineclub che resistono nella città con Fabrizia Salvatori, spesso nostra ospite, intanto ben trovata. Grazie, buon pomeriggio, siamo per le resistenze. Siamo per le resistenze. Esatto. Allora, tutti, voi Federico. Spesso proponete rassegne, in questo caso una monografica su Joseph Losey. Sì, perché è una monografica che mira soprattutto, a parte il fatto che Joseph Losey è uno dei più grandi registi che la storia del cinema ci abbia lasciato, ed è americano, ma è anche inglese, ma è anche francese, come sto dicendo in questi giorni. Poi sono 100 anni dalla sua nascita, è nato nel 1909, è morto nel 1984. Volevamo ricordarlo con qualche titolo, Alphaville è piccola e non possiamo far vedere tutti i film, ma volevamo ricordarlo appunto per la grandezza delle opere che ci ha lasciato, insomma, e quindi si è dedicato a lui. Oh, dal 18 al 22 febbraio, quindi ieri purtroppo abbiamo perso uno dei migliori. Un capolavoro assoluto della storia del cinema, anche perché ricordo e spero, insomma, che gli ascoltatori verranno anche loro a vedere qualcuno di questi film, e poi che curiosamente, e incuriositi soprattutto, andranno a cercarsi tutti gli altri. Noi vi ricordo, insomma, che il grande Losey fu un grande proprio autore anche di formazione teatrale, soprattutto grazie al teatro di Brecht e Piscator, crebbe molto, insomma, proprio anche come autore cinematografico, e vi ricordo che fu poi tra coloro che collaborarono principalmente con il grande Harold Pinter, che peraltro è scomparso anche da poco. E infatti il film di ieri, Il Servo, con uno splendido, non me lo fate dire perché io sono appassionata, proprio un'innamorata personale, Dirk Bogart, che sarà presente anche questa sera nell'altro lungometraggio che abbiamo selezionato, che è appunto L'incidente. Sempre appunto con la sceneggiatura di Harold Pinter. Sono davvero dei manuali, e dal punto di questi, ma guarda, film... Il Servo per me è stato proprio una rivelazione, ma di una modernità. Poi vogliamo parlare dei rapporti servo-padrone, del conflitto di classe, della latente nemmeno tanto omosessualità, cioè modernissimo. Hai ragione proprio, Federico, da tutti i punti di vista. Io non ho parole, ma per non parlare del linguaggio cinematografico, bianco e nero, spettacolare, guarda, folgorante, un'estetica folgorante, mai gratuita, sempre giustificata dal senso della narrazione. Io, guarda, è una grande interpretazione, poi, mamma mia, poi io non vi posso parlare di Dirk Bogart. Ricorda agli ascoltatori che è stato anche il protagonista di quell'ottima prova, appunto, che fu di quell'ottimo lungometraggio, quell'ottimo lavoro di Liliana Cavani, Portiere di notte, con Charlotte Rampling. Lui era appunto il protagonista assoluto maschile, no, un grande interprete, un interprete, ricordo appunto, anche sulla corda di questo film del Servo, perché anche lui poi dichiarò a suo tempo la sua omosessualità, in tempi in cui l'outing non era ancora così frequentato, insomma, no? E che quindi venne dichiarato proprio per, come dire, dare anche un segno, no? Nella Gran Bretagna civile e civilizzante, che insomma fosse un segno forte, e anche in questo film di ieri, ma anche oggi obiettivamente nel film di questa sera. Ricordo che stasera c'è appunto questo incidente, anche nel film di stasera molti dei temi trattati già ieri sono presenti. Vi ricordo appunto che Harold Pinter comunque fu lo sceneggiatore anche dell'incidente. Vi ricordo anche che poi faremo vedere Messaggero d'amore, che è una storia incredibile. un'incredibile storia, appunto il titolo è già, come dire, esaustivo di che cosa vedremo, e non solo. Poi avremo Mr. Klein questo sabato, e per ultimo domenica ci sarà il penultimo film di Losey del 1982, girato in Francia con attori francesi, tra cui Alain Delon. E lo so, è caduto anche lui nella Land of Lana, però era bravissimo in questo film che si chiama La Truite. Quindi diciamo che abbiamo cercato di dare un assaggio, davvero un piccolo assaggio. Ecco, però... infatti proprio questo ti volevo chiedere, come vi siete su cosa vi siete basati per la scelta dei titoli? Guarda, molto brutalmente, Federico, ti dico che la scelta dei titoli nasce da due cose essenziali. Uno, un mio gusto personale. Sì. Il servo, come dici tu, mi ha segnato quindi ha detto, ho pensato che dovesse segnare tutti gli altri che hanno voglia di vederlo, e così come l'incidente, perché riguardano appunto il trascorso teatrale di Pinter, e dunque mi fa molto piacere insomma che sia possibile rivederlo in questi due film, il trascorso teatrale di Pinter e dello stesso Losey. Quindi mi faceva piacere far vedere questo parallelo, questo connubio eccezionale tra teatro e cinema, anche dal punto di vista del linguaggio semantico cinematografico. E poi gli altri li ho scelti perché, lo dico proprio a voce sommessa, erano quelli che con più facilità era possibile poter far vedere. Perché io avrei voluto far vedere Il ragazzo dei capelli verdi, che però abbiamo già fatto vedere ad Alphaville una volta, avrei voluto far vedere Il Don Giovanni, ma mi sembrava una scelta piuttosto complessa per chi si avvicina per la prima volta all'Osei. È nato, diciamo, questo nostro desiderio proprio dal far vedere come questo regista grande, veramente grande, e soprattutto che contrastò molto un certo tipo di America e che per questo se ne andò, anni difficili per il sindacato degli attori, per il sindacato degli autori suoi, e stiamo parlando degli anni 50, che se ne andò via e tentò comunque di fare la sua strada attraverso la collaborazione con altri che in qualche modo prevedevano e vedevano avevano un percorso comune, un'idea comune della storia non solo del cinema ma dei percorsi umani, insomma. Harold Pinter era uno di questi, quindi diciamo la scelta è nata proprio da un'idea di spaccato teatrale e poi successivamente da un'idea di cinema in plein air, insomma, ecco, questa è la scelta, diciamo. Bene, allora ricordiamolo, al Cineclub Alphaville da ieri fino al 22 febbraio. In bocca al lupo. E io mi auguro di vedere il Glass Crab innanzitutto e mi auguro di vedere, ti ringrazio Federico per i vostri collegamenti che sono sempre veramente importanti per noi e soprattutto per gli autori che andiamo a trattare in rassegna, e mi auguro di vedere parecchi giovani, perché so che Losey non è un autore molto frequentato, ma io credo che sia veramente indispensabile anche per i ragazzi che vogliono conoscere che cos'è la profondità di campo oltre che l'istanza narrativa, venire a vedere un grande autore come Losey, insomma, ricordarlo. Patrizia, alla prossima, tanto voi tirate fuori sempre cose. Dai cappello e oltre i conigli esce fuori di tutto. Esatto. Un abbraccio forte Federico, grazie, ciao. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie, ciao, ciao. Grazie. Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville. Pomeriggio ad Eva. Ciao. Ciao a tutti. Come stai? Tutto bene. Allora, parliamo di Strike SPA e di un'iniziativa suddivisa in tre giornate. Sì, esatto, si tratta di una piccola mini rassegna cinematografica di tre giornate che inizierà domani venerdì 20 e proseguirà ogni due settimane, per cui poi venerdì 6 marzo e venerdì 20 marzo. Una piccola rassegna costruita intorno alla parola Palestina, dentro al quadro di un lavoro complessivo che come centro sociale, ma non da soli, stiamo attraversando, e su questo ne approfitto per ricordare a tutti che ad aprile partirà la prossima carovana in Palestina di Sport Sotto l'Assedio, che quest'anno vedrà una grandissima partecipazione da Roma, e quindi ne approfitto anche, scusate l'off topic, per dire a tutti che nel corso di marzo si moltiplicheranno in tantissimi centri sociali di Roma le iniziative a sostegno della prossima carovana e che tutti sono invitati a parteciparvi. Dentro a questo quadro abbiamo pensato di costruire allo strike un piccolo momento di approfondimento a partire dal cinema sulla Palestina, con una rassegna i cui primi due appuntamenti abbiamo costruito insieme al Tech Festival, riproponendo alcuni titoli delle edizioni del 2006 e dell'anno scorso che ci sembravano particolarmente belli. Se non sbaglio, cortometraggi e documentari, no? Cortometraggi e documentari, sì, esattamente. Sì. Si inizierà appunto domani con i cortometraggi The Palestine Summer of 2006, che erano stati appunto proposti all'edizione scorsa di maggio 2008 del Tech Festival, ed è una raccolta di 13 cortometraggi di 3 minuti l'uno, realizzati da un progetto comune palestinese chiamato The Palestine Filmmakers, che hanno il valore di essere corti realizzati tutti da registi palestinesi residenti nei territori occupati, perché sappiamo che poi l'oppressione dell'occupazione israeliana e la dimensione di diaspora costante palestinese significa anche che poi spesso le voci di registi, di chi fa cultura, di chi fa cinema, riescono ad esprimersi solo nel momento in cui vanno in esilio, in cui espatriano, mentre appunto questo piccolo progetto è il frutto di uno sforzo per dare voce a chi vive dall'interno quella situazione, e quindi si tratta appunto di 13 cortometraggi realizzati nel 2006, per cui partendo dal presente. Da lì faremo un salto indietro nel tempo, con la proiezione di Laila Khaled Hijack, Laila Khaled dirottatrice, film della svedese palestinese Lina Makbul, un film del 2005 presentato all'edizione del Tech Festival di 2 anni fa, che appunto, ripercorrendo la storia della combattente per la libertà del Fronte Popolare di Liberazione per la Palestina, Laila Khaled in qualche maniera ripercorre un po' tutta la storia del conflitto israeliano-palestinese, a partire soprattutto dall'inizio, dalle sue prime fasi. Laila nasce ad Haifa nel 1944, quando Haifa era ancora in Palestina. All'età di 4 anni si ritrova rifugiata in Libano, all'età di soli 24 anni dirotta un aereo, tra l'altro l'aereo Roma-Atene della TWA, all'interno di un'operazione che poi si concluderà con successo a Damasco, senza alcuna conseguenza per i civili, perché il Fronte Popolare di Liberazione per la Palestina faceva del non toccare i civili un motivo di fondo poi della loro azione. E la regista, la giovane regista palestinese Lina, cresciuta in Svezia, è andata a ricercare Laila dopo 35 anni, Laila che oggi ancora vive in esilio in Giordania, e ne è nato appunto un confronto tra, diciamo, questa giovane donna e un personaggio simbolo della lotta palestinese, in un documentario che insomma a noi è sembrato veramente, veramente molto bello e che siamo molto contenti di poter proporre. Bene, senti, c'è il programma sul sito? Il programma sul sito di Strike sì, c'è, così come c'è su Indie Media. Il sito di Strike è temporaneamente sospeso, ma da domani tornerà in linea per motivi indipendenti da noi. Dico solo velocemente quali saranno i successivi due titoli. Il 6 marzo invece passeremo, tra l'altro appunto i 3 documentari sono tutti e 3 firmati da donne, cosa di cui siamo molto contenti. Bene. Proietteremo To See If I'm Smiling dell'israeliana Tamar Yarom, presentata al Tech Festival del 2008, quindi questa volta invece uno sguardo israeliano, con un'intervista, un documentario intervista a 6 giovani donne israeliane che raccontano la loro esperienza di soldatesse diciottenni nei territori occupati, del potere assurdo che queste diciottenni si sono ritrovate in mano, e appunto di che cosa significa, di che cosa fa l'esercito israeliano nei territori, raccontato da chi direttamente tutto questo lo ha fatto. E chiuderemo invece il 20 marzo di nuovo con un punto di vista prettamente palestinese, con la proiezione di Slingshot Hip Hop di Jackie Saloum, un documentario uscito nel 2008 e proiettato allo scorso edizione del Sundance Festival, dove ha avuto un grande successo, dico subito che questo documentario con ogni probabilità sarà una proiezione puramente copyright, nel senso che stiamo cercando di ottenere le necessarie autorizzazioni, non è detto che ci riusciremo, dopodiché come centro sociale noi riteniamo che i film sono fatti per essere visti, ed è un documentario che racconta l'esperienza dei nuovi gruppi pop palestinesi, Dammi, Palestinian Rappers di Gaza e tutto quello che intorno appunto alla cosiddetta rivolta in musica, rivolta in suoni dell'hip hop, sta nascendo come nuova voce di resistenza delle giovani generazioni palestinesi, documentario per il quale noi realizzeremo una versione italiana autoprodotta, e perché appunto pensiamo che vada visto, e quindi insomma invitiamo tutti poi a venirlo a vedere. Molto bene, allora l'appuntamento è a partire da domani. L'appuntamento è a partire da domani alle 9:30 allo Strike via Umberto Partini 21 Portonaccio, e poi si proseguirà venerdì 6 marzo e venerdì 20 marzo. Un abbraccio, alla prossima. Grazie mille, ciao. Ciao Eva, ciao. Una Anna Reduce. Sì, sì, con sì. Tanta fatica, freddo, da Berlino. Com'è andata? A parte il fatto che non ti sei sentita bene. Ma no, il festival è stato molto impegnativo, come spesso accade. E bene, cioè comunque è una selezione sempre interessante, con qualche punta davvero notevole, che speriamo possa arrivare anche da queste parti, no? Mm-hmm. Se qualche distributore se ne accorgerà. Ha vinto un film peruviano in coproduzione con la Catalogna, con la Spagna anche, di una donna del 1976, quindi una giovane regista, la sua seconda opera, si chiama La tetta su strada, che vuol dire la tetta, il senno dolorante, tradotto però internazionalmente con The Milk of Sorrow, cioè il latte della tristezza, perché la malattia, diciamo metaforica, della mammella della protagonista del film nasce da un retaggio della madre. Non sto a raccontare più nei dettagli. Un film molto toccante, anche poetico, con delle intromissioni piacevoli dal mondo indio. Ci sono dei canti in quechua e la protagonista è indio, e quindi un paese che non si conosce, un paese finalmente insomma che viene in qualche modo raccontato, e una regista che già fece un'opera prima interessante tempo fa, Made in USA, non so se ne hai sentito parlare, una parola sola, mm-hmm, no. Made in USA era in spagnolo. E questo è il premio appunto l'Orso d'Oro di quest'anno, sì. Al femminile anche altri due premi importanti, il gran premio della giuria e l'attrice, un film che si chiama Alle Anderen, tedesco, la regista anche lei del 1976, quindi altra giovane regista. Io sono felicissima per tutte queste donne che portano a casa premi. Certo. E l'Africa toccata anche lei dai premi, con il miglior attore a un malinese per il film di Rashid Bouchareb, London River, un film molto molto bello che vedremo in Italia presto. E poi che dire, la migliore sceneggiatura ha un film statunitense, The Messenger, uno dei migliori visti sicuramente quest'anno a Berlino. Scritto e diretto da un israeliano, tengo a precisare, quindi questo incrocio di popoli, no? Sì. E poi che cosa ci manca nel palmarès? Ah sì, ecco, la tripletta di premi a un film uruguaiano, anche questo è un paese davvero che si è bello scoprire, quindi l'America Latina l'ha fatta un po' da padrone. Con tre premi, Gigante, che vuol dire gigante, anche questo è un'opera prima, quindi Berlino meritevole del nostro applauso, proprio perché è andato a scovare, è andato a premiare magari registi giovani, paesi non particolarmente in vista, poetiche diverse. Questo ci piace. Sì. Non sono mancati comunque anche dei film, diciamo, più mainstream, per forza di cose, non potevano, anche per una questione mediatica, però sono tutti stati abbastanza apprezzati. Bene. Voglio per esempio citare il film di Stephen Frears, che è un regista inglese che per una certa finezza di sguardo e di gusto a me piace particolarmente, e ha ricostruito la Parigi del fine secolo con un lavoro che si chiama Cherie, e lo stesso sceneggiatore che lo portò al successo con le relazioni pericolose, ricordiamo uno dei suoi capolavori secondo me, sì. E ha ritrovato protagonista Michelle Pfeiffer, bravissima devo dire, oltre che bellissima. Quindi questi sono un po' gli esiti berlinesi, vedremo che cosa ci arriverà di tutto quanto in Italia, non è facile insomma coi tempi che corrono. Senti, negli ultimi tempi invece di quello che è arrivato in sala, cosa ti sentiresti di suggerire? Allora, intanto io ho visto The Reader, l'avevo visto che esce, mi sembra, questo venerdì, no? The Reader, certo. E tra l'altro era anche in anteprima, non lo so che anteprima fosse, comunque era anche a Berlino, luogo quanto mai importante per un film del genere. Sì. A me il film di Stephen Daldry non mi ha proprio convinto, mi ha parecchio annoiato. Mi ha interessato la storia, indubbiamente è forte, sì. Commovente, importante, però non l'ho trovato nella sua struttura all'altezza di questa storia. Cioè, a me non mi aveva neanche entusiasmato il suo precedente film, non so se era il precedente o quello ancora prima, The Hours. A parte le interpretazioni, devo dire che lui esalta più gli attori, però anche lì Kate Winslet, che pure è un'attrice di grandissimo livello ed è una che io seguo da sempre. Qui la storia secondo me travalica sia l'interpretazione degli attori che la sceneggiatura, che le scelte registiche. Secondo me è la storia di per sé che pone grossi. Sì, quindi a questo punto leggiamoci il romanzo. Sì, però anche le scelte rispetto al testo, insomma, il regista non ha sbagliato proprio tutto, secondo me. Ma forse non è una questione di errori, cioè lui ha fatto il compitino che doveva fare. Però io penso solo che avrei voluto forse vedere un film diverso nella modalità espressiva, cioè non è che mi ha fatto schifo, ecco, in questo senso. Sì. Anche per esempio la scelta di prendere David Cross, giovanissimo tedesco, attore tedesco, bravissimo secondo me, ci sono dei momenti davvero belli. Però nel suo insieme il film l'ho trovato molto noioso, molto noioso. E poi ecco, la stessa Kate Winslet, vogliamo parlarne, cioè questa bizzarria delle scelte di nominare gli Oscar alcuni attori, no, per le interpretazioni. Ora domenica ci saranno gli Oscar, la notte degli Oscar con l'attribuzione delle statuette. Allora, Kate Winslet è stata candidata per The Reader ed è stata dimenticata per un'interpretazione secondo me superiore nettamente, che è Revolutionary Road. Sono in molti a sostenerlo, sì. Io lo sostengo fermamente, sì, perché sì. Non c'è paragone, non so tu, ma secondo me nell'intensità, proprio anche nella difficoltà dell'approccio. Cioè, non che questa, per carità, questa personaggio di The Reader fosse facile, ma è molto più evidente, magari. Cioè, a parte c'è l'invecchiamento, c'è tutto un aspetto, no? Molto forte che si porta a questa donna, ma nella sottigliezza di Revolutionary Road, che invece è una storia molto più tra le righe, no? Sì. Molto più nelle mani degli attori, è più difficile secondo me, perché è un'angoscia tutta interiore che vive. E mentre la personaggio di The Reader è anche una persona che non si rende conto di quello che succede intorno a sé. Quindi non lo so, queste sono mie idee, ecco, sì, così. E poi ecco, tra i film credo che siano usciti, perché io devo appunto, ho dovuto recuperare qualcosa, ho visto Frost Nixon di Ron Howard. Allora, è un lavoro bellissimo, devo dire, Ron Howard, che è un regista molto americano, e lo dico tra virgolette, che significa con l'estetica tipica della regia americana, di un certo tipo di regia americana riconoscibile, ecco, qua secondo me ha estratto uno dei suoi film migliori di tutta la sua carriera registica, anche per aver scelto un dibattito che tra l'altro io subito mi sono andata a recuperare l'originale su YouTube per vedere le battute saranno le stesse, per vedere com'è, no, le differenze eccetera. Devo dire fedelissimo, ma soprattutto la forza anche della telecamera, di un punto di vista particolare, non perde mai la tensione, tu soffri con i personaggi secondo me, e poi c'è una riflessione molto importante alla fine, ecco, che non è legata alle rivelazioni di Nixon, che sono, si sanno, ma è legata proprio alla forza dell'immagine e della televisione come mezzo mediatico oggi. Quindi secondo me è importante questo film da tutti i punti di vista. Cioè io devo dire, non sono mai stata una grande fan di Ron Howard, forse oggi il film che avevo preferito, adesso non mi ricordo neanche tutti i film che ha fatto, però mi era piaciuto Cinderella Man per esempio, no? Ecco, questo è nettamente superiore, con degli attori strepitosi tutti. Da vedere in lingua originale, lo dico fermamente, tutti i film vanno visti in lingua originale, questo in particolare. Ecco, questi sono i miei, più o meno quello che ho visto. Devo recuperare Benjamin Button, candidato a 13 Oscar, forse è un'esagerazione, non mi aspetto niente da questo film, per quanto mi piaccia il regista David Fincher, ma non mi aspetto niente da questo film. Non so se tu l'abbia visto, che cosa? Sì. Ma non mi aspettavo molto e non molto ho avuto, insomma. Per cui. Ah, ecco, quindi andiamo bene. Niente, quindi questi sono quindi un po', questo. Ecco. Okay. Gli Oscar, facciamo una previsione? Non so anche se ne hai già parlato con qualcuno. No, anche no. Perché no? Sulle previsioni, perché? Vabbè, facciamo un tifo? Fai il tifo allora, dai. Beh, gli Oscar sono comunque, cioè, niente da dire, il premio importante del cinema mondiale. Io spero vivamente nella vittoria come migliore interpretazione maschile di Mickey Rourke. Oh. The Wrestler, perché secondo me dà l'anima. Grandissimo Sean Tan Milk, grandissimo anche il film, però Mickey Rourke dà l'anima. Anche Frank Langella, devo dire, per Frost, l'interpretazione sua di Nixon è grandissima, però concediamoci questo tifo per Mickey Rourke questa volta, e tutto il resto vedremo. Ah sì, e poi miglior film straniero, non ho dubbi su Walzer con Bashir. Ah, ok. Mentre animazione, vogliamo dirlo insieme, non ci sono candidati che possano tenere la genialità di Wall-E. Okay. Allora ti sei prodotta anche in questo tifo previsione, e ci risentiamo per la prossima. Ok, bacio, buon lavoro e buon pomeriggio a tutti. Ciao Anna. Oh, ce la facciamo un altro collegamento, sì. Buon pomeriggio. Ciao Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Come stai? Bene, bene, tutto a posto, tutto a posto. Mi stavo divertendo ad ascoltare le previsioni sugli Oscar. Sì, eh. Sinceramente, sì. Io non mi ci sarei dedicato, però vabbè, si può fare. No, io sappi che da me non avrai la richiesta. mi astengo, lascio fare ad una mia amica che se le gioca anche alla SNAI di solito, quindi preferisco evitare, guarda, sinceramente, anche perché quest'anno, almeno dai film che ho visto, sarà abbastanza deprimente trovare qualcosa di veramente eccezionale. Senti, per questo fine settimana cosa sarebbe bene andare a vedere? Beh, in realtà cose da vedere proprio in maniera assoluta questo fine settimana non ce ne sono tantissime. Diciamo che c'è stata una sorta di attesa per la settimana poi successiva, che sarà invece invasa da un po' di titoli, soprattutto la prima settimana di marzo sarà invasa da titoli abbastanza importanti. Uscirà finalmente The Wrestler, che da noi è stato rimandato per almeno 2 mesi, uscirà Watchmen, questo film fantomatico di cui si sente parlare da un po' di tempo. Questa settimana c'è... Però noi dobbiamo recuperare anche la settimana scorsa, mi pare, no? Giusto. Vorrei venirvi incontro e parlare di The Reader, ma non l'ho visto, quindi per quanto riguarda i film che invece sono già in sala... diciamo che ho avuto modo anch'io di vedere Benjamin Button, quindi posso lanciarmi in una piccola difesa del film. Oh, interessante. Allora, stiamo molto calmi innanzitutto. È un film di David Fincher e io da David Fincher mi aspetto sempre il massimo, e questa volta non l'ho ottenuto, sinceramente. Però non sono d'accordo soprattutto con tutte queste riflessioni che hanno coinvolto anche il fatto che comunque fosse scritto dallo stesso sceneggiatore di Forrest Gump, una vicinanza molto forte tra questo film e appunto il film di Robert Zemeckis. In realtà c'è questa grossa vicinanza, poi, se andiamo bene a vedere, secondo me. Anche secondo me. Questa è stata, secondo me, una specie di inganno, dove forse, io forse sono un po' di parte, però forse ha giocato anche la regia di David Fincher, un po'. Lui ha giocato molto sulla superficie di Forrest Gump, poi in realtà quello che il film vuole raccontare, per certi versi, è contrario all'ideologia di fondo del sogno americano a tutti i costi che invece era presente nel film di Zemeckis. Benjamin Button è un film sulla vita che passa e sul fatto che l'uomo non può farci nulla, in sostanza. Forrest Gump ti dice invece che se sei incredibilmente tenace, come il tenente interpretato da Gary Sinise, senza gambe, che alla fine del film zompetta sulle sue gambette di titanio e fonda la Apple, per intenderci, o se sei incredibilmente ingenuo e generoso come Forrest Gump interpretato da Tom Hanks, alla fine l'America ti premia. E quello io l'ho trovato di un fastidioso snervante. Benjamin Button ti dice che non c'è vita straordinaria, nemmeno quella di un uomo che nasce vecchio e muore neonato, non c'è niente di speciale, l'unica cosa che un uomo può fare è godersi i momenti di felicità che passano, che sono destinati a finire, ma che comunque ci sono e che rendono quelli la vita di chiunque straordinaria. Poi che lo faccia in 2 ore e mezza di film, che ne bastava almeno, proprio per essere gentili, mezz'ora di meno proprio, possiamo dirlo, che lo faccia con alcune trovate anche molto furbe, su, diciamo, espedienti che proprio non mi aspetto da un regista come Fincher, forse si sarà anche un po' innervosito dal fatto che non lo fanno lavorare mai, e dice, almeno adesso forse con qualche Oscar qualcuno continuerà a chiamarmi. Siamo d'accordo, non è un film eccezionale, non è un film che merita le 13 nomination che ha avuto, però è un film che non mi sento di distruggere come invece ho visto fare, soprattutto per quanto riguarda questo parallelo con Forrest Gump, che non ho veramente trovato. Per quanto riguarda altri film in sala, esce questa settimana un film che di cui mi preme parlare, l'abbiamo visto insieme, tra l'altro, Quell'estate felice. Oh, Quell'estate felice, sì, l'abbiamo visto l'altra mattina. L'altra mattina, di Beppe Cino, regista ex collaboratore di Roberto Rossellini. Di lungo corso, sì. Sì, beh, 61 anni, quindi, insomma, La storia è ambientata in questa Sicilia del 1951, appunto molto forte c'è questo sguardo all'epoca, ad un'epoca che se n'è andata, un'epoca che se n'è andata fatta di amori non corrisposti, in particolar modo quello del professore protagonista Angelo Amato per la ragazza più bella del paese, interpretata da Olivia Magnani, che abbiamo già visto nelle conseguenze dell'amore. Sì, Olivia Magnani, che volevo interpellare stamattina proprio per visionari, proprio su questo film, ma secondo me ci sarà modo di sentirla magari la prossima settimana. Ah, perfetto, perfetto. E appunto questo sguardo ad un'epoca che poi lo stesso Beffecino in conferenza stampa ha definito il periodo, gli anni 50, il periodo in cui quell'epoca poi è finita. Sì. Nel bene e nel male, perché poi lui vede nel personaggio interpretato proprio dalla Magnani, Maria Venera, quel personaggio che dà il via alla fine di una serie di stereotipi sulla donna che riguardano in particolar modo la Sicilia, quindi una serie di tradizioni che vuole la donna sottomessa o comunque legata ad un patriarcato forte come sì, quello siciliano. Sì, sì. Il personaggio di Maria Venera è un personaggio che invece ad un certo punto arriva ad utilizzare l'amore che gli uomini provano per lei per i suoi scopi, quindi sì, un personaggio anche emancipato. Sì. Oh, va detto anche che Maria Venera era il titolo originario del film, che è stato è stato finito nel 2007 e poi ha fatto un percorso festivaliero. Sì, e sì, poi sì, è sì, cambiato, sì, hanno cambiato il titolo ed esce ora nelle sale. Ed esce adesso nelle sale. Tra l'altro Beppe Cina ha detto che questa era una sceneggiatura addirittura dei primi anni 90, sì, sì, che doveva approdare sulla Rai in televisione all'inizio, sì, e la Rai, che ha occhio lungo per queste cose, sì, no, ha deciso di non farla. Per quanto riguarda il film è difficile parlarne male, questa è una sensazione che io ho avuto, perché ha dei difetti forti, un difetto fondamentale che poi è richiamato nella pellicola stessa, è un'impostazione fortemente, esageratamente teatrale. Sì. Teatrale televisiva, io trovo. Sì, sì, ma forse l'aspetto televisivo è dovuto ai pochi mezzi. Credo che Beppe Cina sappia usare la macchina da presa, poi che non abbia potuto farlo per certi aspetti, secondo me è anche dovuto appunto alle difficoltà produttive che questo film ha avuto. Però appunto c'è un'impostazione di fondo che è invece fortemente teatrale, fin dalla scelta degli attori, che sono tutti provenienti dal teatro. Catania, molto... Teatro Stabile di Catania, mi sembra. Esatto. Quasi tutti, sì. Sì, sì, sì. Alcuni molto bravi, altri sinceramente un po' meno. È un film comunque così esageratamente ingenuo, così onesto nel descrivere un punto di vista di un uomo che vede cambiare poi quello che è la terra da lui amata, che secondo me avrebbe, in forma di romanzo, sì, che da cui tra l'altro è tratto, il film rende molto meglio, e forse anche in forma televisiva, poi questo bisognerà vedere se riuscirà ad avere un passaggio televisivo. In sala è difficile entrare in contatto con un film dal sapore così antico, così veramente passato anche, è un termine brutto, ma... Beh sì, soprattutto nelle macchiette, molti sono personaggi macchietta, insomma. Esatto, forse è esatto, quello che infastidisce di più. Sì, sì, sì, e voglio dire, soprattutto poi quando abbiamo degli esempi di registi che, come Tornatore ad esempio, che hanno parlato di quella Sicilia e comunque lo hanno fatto con uno stile registico che si poteva vedere, che poi può piacere o meno, perché anche Tornatore si compiace anche un po' troppo del suo essere un bravo regista, quindi magari dà anche un po' fastidio a un certo punto, però... È un modo con cui il pubblico può immedesimarsi e rispecchiarsi di più. Questa pellicola, secondo me, è una pellicola che 30 o 40 anni fa avrebbe fatto sfaceli. Adesso purtroppo è datata e questo è un peccato, perché appunto la storia comunque meritava comunque un maggior riconoscimento. Bene caro, allora ci salutiamo e ci diamo appuntamento per la prossima. Assolutamente. Un saluto a tutti. Ci si vede anche in sala. Vabbè, noi tanto ormai abbiamo i nostri due posti in terza fila o quarta se non sono occupati, quindi stiamo lì apposta. Ciao caro. Ciao Federico, un abbraccio. Ciao. Ciao. E un saluto anche a chi ci ascolta, appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, le informazioni le trovate sulla scaletta scritta pubblicata sul sito ondarossa.info. Buon proseguimento e a giovedì prossimo.